Capitolo 163. L'ira di Achille. Venne l'inverno, e poiché i popoli civili non hanno mai combattuto durante questa stagione, i Greci lo trascorsero ampliando il loro accampamento ed esercitandosi nel tiro con l'arco. Si imbattevano a volte nei notabili troiani quando si recavano al tempio di Apollo Timbreo, che era territorio neutro. Un giorno, mentre Ecuba stava sacrificando al dio, Achille arrivò al tempio con la medesima intenzione e si innamorò perdutamente della figlia della regina Polissena. Non le fece alcuna dichiarazione per il momento, ma appena ritornato alla sua tenda, col cuore in tormento, incaricò il gentile Automedonte di chiedere a Ettore a quali condizioni gli avrebbe permesso di sposare Polissena. Ettore replicò: Polissena sarà tua il giorno in cui consegnerai l'accampamento greco a mio padre Priamo. Achille pareva quasi disposto ad accettare le condizioni di Ettore, ma vi rinunciò, sia pure a malincuore, quando seppe che, se non fosse riuscito a far cadere il campo nelle mani del nemico, doveva giurare di uccidere suo cugino, il grande Aiace, e i figli dell'ateniese Plistene. Giunse infine la primavera e i combattimenti ripresero. Del primo scontro Achille invitò Ettore a farsi avanti, ma il vigile Eleno gli trafisse il palmo della mano con una freccia scoccata da un arco d'avorio, dono d'amore di Apollo, e lo costrinse ad arretrare. Zeus stesso guidò al bersaglio la punta della freccia e subito decise di dare un po' di requie ai troiani, scoraggiati dalle incursioni dei greci lungo le coste e dalla conseguente diserzione di certi alleati asiatici. Zeus colpì i greci con una pestilenza e mise in urto Achille con gli altri suoi compagni. Quando Crise venne al campo per riscattare Criseide, Zeus indusse Agamennone a scacciarlo con ingiuriose parole. Apollo, invocato da Crise, si piazzò presso le navi e per giorni e giorni, incessantemente, scagliò le sue frecce tra i greci. Gli uomini perirono a centinaia, benché, come spesso accade, né re né principi fossero colpiti. Al decimo giorno Calcante rivelò la presenza del dio. Per invito di Calcante, Agamennone, sia pure a malincuore, rimandò Criseide al padre con doni propiziatori, ma trovò tosto un compenso a quella perdita, togliendo Briseide ad Achille, che l'aveva avuta in dono come schiava nella spartizione del bottino. A che Achille, furibondo, dichiarò che non avrebbe più preso parte alla guerra, e sua madre Tete, indignata, interpellò Zeus, che le promise soddisfazione per Achille. Ma altri dicono che Achille si astenne dal combattere per dimostrare la sua buona volontà a Priamo, padre di Polissena. Quando i troiani si resero conto che Achille e i suoi mirmidoni si erano ritirati dalla battaglia, ripresero animo e fecero un'audace sortita. Agamennone, allarmato, propose una tregua durante la quale Paride e Menelao si sarebbero battuti in duello per decidere la sorte di Elena e del tesoro rubato. Il duello, tuttavia, ebbe esito incerto perché Afrodite, quando vide che Paride stava avendo la peggio, lo avvolse in una magica nube e lo trasportò a Troia. Era, allora, incaricò Atena di rompere la tregua inducendo Pandaro, figlio di Licaone, a scoccare una freccia contro Menelao. Al tempo stesso la dea diede a Diomede l'ispirazione di uccidere Pandaro e di ferire Enea e la madre sua Afrodite. Glauco, figlio di Ippoloco, affrontò tosto Diomede, ma ambedue, rammentando l'amicizia che aveva legato i loro padri, cavallerescamente si scambiarono le armi. Ettore sfidò Achille a duello. Ma quando Achille mandò a dire che si era ritirato dal combattimento, i greci scelsero il grande Aiace per sostituirlo. I due campioni combatterono senza tregua fino al cader della notte, quando gli araldi li separarono e ciascuno col fiato mozzo lodò il valore e il coraggio dell'altro. Aiace donò a Ettore il purpureo balteo, di cui poi si servì Achille per trascinarlo morto attorno alle mura di Troia. Ed Ettore donò ad Aiace la spada dall'elsa d'argento con la quale in seguito l'eroe si uccise. Accordatisi per una tregua, i greci innalzarono un tumulo sui loro morti e lo cinsero con un muro oltre al quale scavarono una profonda trincea difesa da una palizzata. Ma trascurarono di placare le divinità amiche dei troiani e quando la battaglia fu ripresa vennero respinti al di là della trincea, fin dietro il muro fortificato. Quella sera i troiani si accamparono molto vicini alle navi greche. Agamennone, disperato, mandò Fenice, Odisseo, Aiace e due araldi alla tenda di Achille, con l'incarico di offrirgli, per placarlo, innumerevoli doni e la restituzione di Briseide, ancora vergine, come Agamennone era pronto a giurare, se avesse acconsentito a combattere ancora. Occorre qui spiegare che Crise, frattanto, aveva riportato all'accampamento greco sua figlia, che sosteneva di essere stata trattata con molta cortesia da Agamennone e desiderava rimanere con lui. Essa era infatti incinta e più tardi diede alla luce Crise II, un bimbo la cui paternità era dubbia. Achille accolse i messaggeri con un gentile sorriso, ma rifiutò le loro offerte e dichiarò che l'indomani mattina sarebbe salpato per ritornare in patria. Quella medesima notte, durante il terzo turno di guardia, quando la luna era alta, Odisseo e Diomede, incoraggiati da Atena con un buon auspicio, il volo di un airone dalla destra, decisero di fare un'incursione nelle file troiane. Si imbatterono in Dolone, figlio di Eumelo, che era stato mandato in ricognizione dal nemico e, dopo avergli strappato informazioni con la forza, gli tagliarono la gola. Odisseo nascose gli indumenti di Dolone, il cappello, il mantello di pelle di lupo, l'arco e la lancia, in un cespuglio di tamarisco e si precipitò con Diomede verso il fianco destro delle linee troiane, dove, come i due greci avevano saputo da Dolone, era accampato il tracio Reso. Costui è descritto come figlio della musa Euterpe o della musa Calliope e di Eioneo o di Ares o di Strimone. Dopo aver furtivamente ucciso nel sonno Reso e altri 12 traci, rapirono gli stupendi cavalli del re, bianchi come la neve e più veloci del vento. Sulla via del ritorno recuperarono poi le robe di Dolone nel cespuglio. La cattura dei cavalli di Reso ebbe grandissima importanza, poiché un oracolo aveva predetto che Troia sarebbe divenuta inespugnabile non appena quegli animali avessero pascolato nell'erba troiana e bevuto acqua dello scamandro, cosa che ancora non avevano fatta. Quando i traci superstiti si destarono e videro il re morto e i suoi cavalli spariti, si diedero disordinatamente alla fuga e i greci li uccisero quasi tutti. Il disseguente, tuttavia, dopo un'aspra battaglia durante la quale Agamennone, Odisseo, Oripilo e Macaone, il chirurgo, furono feriti, i greci ripiegarono ed Ettore aprì una breccia nel loro muro. Incoraggiato da Apollo, Ettore si spinse poi verso le navi e, nonostante l'aiuto dato da Posidone ai due Aiaci e a Idomeneo, irruppe nelle linee greche. A questo punto Era, che odiava i troiani, prese in prestito la cintura di Afrodite e indusse Zeus ad andare a letto con lei. Questa astuzia permise a Posidone di capovolgere le sorti della battaglia in favore dei greci, ma Zeus, accortosi di essere stato gabbato, rianimò Ettore, che era stato intontito da Aiace con una grossa pietra, ordinò a Posidone di allontanarsi dal campo di battaglia e rinfocolò il valore dei troiani. Essi avanzarono di nuovo. Medone uccise Perifete, figlio di Copreo, e molti altri campioni. Perfino il grande Aiace fu costretto a indietreggiare e Achille, quando vide alzarsi le fiamme dalla nave di Protesilao, incendiata dai troiani, si scordò del suo rancore e incitò i Mirmidoni ad accorrere in aiuto di Patroclo. Questi aveva scagliato la lancia nel folto dei troiani riuniti attorno alla nave di Protesilao e aveva trafitto Pirecmo, re dei Peoni. Allora i troiani, scambiando Patroclo per Achille, fuggirono. Patroclo spense l'incendio, salvò la nave e abbatté Sarpedone. Benché Glauco cercasse di radunare i lici per impedire che il corpo di Sarpedone fosse spogliato, Zeus permise che Patroclo inseguisse l'esercito nemico fino alle mura di Troia. Ettore fu il primo a ritirarsi perché gravemente ferito da Aiace. I greci spogliarono Sarpedone della sua armatura, ma per ordine di Zeus Apollo ne salvò il corpo, che fu preparato per le esequie, e il sonno e la morte lo riportarono in Licia. Patroclo, frattanto, incalzava da presso i nemici e avrebbe conquistato Troia da solo se Apollo, in gran fretta, non fosse salito sulle mura respingendo per 3 volte Patroclo con lo scudo, mentre questi tentava di dare la scalata. La battaglia si protrasse fino al calar della notte, allorché Apollo, avvolto in una fitta nebbia, assalì Patroclo alle spalle e lo colpì con forza tra le scapole. Patroclo strabuzzò gli occhi, l'elmo gli cadde dal capo, la sua lancia andò in 1000 pezzi e lo scudo rotolò a terra, e Apollo, con un sorriso maligno, gli slacciò la corazza. Euforbo, figlio di Panto, vedendo Patroclo ridotto in quello stato, lo ferì senza timore che egli reagisse, e mentre Patroclo si allontanava barcollando, Ettore, ritornato sul campo di battaglia, lo finì con un solo colpo di lancia. Accorse Menelao e uccise Euforbo, che si dice fra l'altro si sia reincarnato in seguito nel filosofo Pitagora. Poi ritornò alla sua tenda con le spoglie del nemico morto, lasciando che Ettore levasse a Patroclo l'armatura. Menelao e il grande Aiace ritornarono sul posto e insieme difesero il cadavere di Patroclo fino al crepuscolo, quando riuscirono a portarlo in salvo presso le navi. Achille, avuta la triste notizia, si rotolò tra la polvere abbandonandosi a una crisi di disperazione. Teti entrò nella tenda del figlio recandogli una nuova armatura che comprendeva anche un paio di preziosi schinieri forgiati da Efesto. Achille diede subito di piglio alle armi. Si riconciliò con Agamennone, che gli restituì Briseide intatta, dicendo di averla voluta per puntiglio e non per desiderio, e uscì dalla tenda per vendicare Patroclo. Nessuno poté resistere alla sua furia. I troiani ruppero le file e corsero verso lo scamandro, dove Achille li divise in due gruppi, respingendone uno verso le mura della città e l'altro nelle acque del fiume. Il dio del fiume si precipitò su Achille con violenza, ma Efesto prese le difese dell'eroe e prosciugò le acque col calore di una fiammata improvvisa. I troiani superstiti si rifugiarono in città come un branco di cerbiatti terrorizzati. Quando infine Achille si trovò a faccia con Ettore e lo sfidò a duello, le due schiere nemiche arretrarono e rimasero a guardare attonite. Ettore voltò le spalle all'avversario e cominciò a correre attorno alle mura della città. Con tale manovra sperava di stancare Achille, che per molto tempo era rimasto inattivo e doveva dunque avere il fiato corto. Ma si sbagliava. Achille lo inseguì per tre volte attorno alle mura, sempre pronto a precederlo e a sbarrargli il passo se Ettore cercava rifugio presso una porta per ricorrere all'aiuto dei suoi fratelli. Infine Ettore si fermò, deciso a sostenere l'attacco, e subito Achille gli trapassò il petto e rifiutò di concedere il favore che Ettore morente implorava, che il suo corpo potesse essere riscattato per le esequie. Impossessatosi dell'armatura del morto, Achille gli tagliò la carne dietro i tendini dei talloni, passò strisce di cuoio nei fori e le legò al suo cocchio. Poi, incitati con la frusta Balio, Xanto e Pedaso, trascinò il cadavere verso le navi al piccolo trotto. La testa di Ettore, coi neri riccioli spioventi, sollevò una nube di polvere, ma altri dicono che Achille trascinò il corpo attorno alle mura di Troia, servendosi del balteo che Aiace aveva donato al morto. Achille si occupò poi delle esequie di Patroclo. Cinque principi greci furono inviati sul monte Ida in cerca di legna per il rogo funebre, e su tale rogo Achille sacrificò non soltanto alcuni cavalli e due dei nove cani della muta di Patroclo, ma anche 12 nobili prigionieri troiani, tra i quali alcuni figli di Priamo, che uccise sgozzandoli. Minacciò infine di gettare il corpo di Ettore in pasto ai cani superstiti. Afrodite tuttavia lo trattenne. Ai giochi funebri in onore di Patroclo, Diomede vinse la corsa dei cocchi ed Epeo, nonostante la sua codardia, la gara di pugilato. Aiace e Odisseo chiusero alla pari la gara di lotta. Quasi a placare il dolore per la morte di Patroclo, Achille si alzava ogni mattina e trascinava tre volte il corpo di Ettore attorno alla tomba dell'amico perduto. Tuttavia Apollo protesse il cadavere, impedendo che si corrompesse o lacerasse, e infine, per ordine di Zeus, Ermete guidò Priamo al campo greco col favor delle tenebre e indusse Achille ad accettare il prezzo del riscatto. In quella occasione Priamo si dimostrò molto magnanimo nei confronti di Achille, poiché lo trovò addormentato nella sua tenda e avrebbe potuto facilmente ucciderlo. Il prezzo del riscatto fu fissato in tanto oro quanto pesava il corpo di Ettore. I greci portarono una bilancia dinanzi alle mura della città, posero il cadavere su un piatto e invitarono i troiani a gettare oro sull'altro piatto. Quando già si era dato fondo al tesoro di Priamo e il greve corpo di Ettore ancora premeva il piatto della bilancia verso il basso, Polissena, che stava a guardare dalle mura, gettò giù i suoi braccialetti per completare il peso. Pieno di ammirazione, Achille disse a Priamo: «Tieniti il tuo oro. Preferisco barattare il corpo di Ettore con Polissena. Dammela in sposa, e se restituirai Elena a Menelao, mi incaricherò di ristabilire la pace tra il mio popolo e il tuo. Ma apriamo per il momento. Bastava di riscattare il corpo di Ettore con l'oro. Promise tuttavia di dare Polissena in sposa ad Achille se egli avesse indotto i greci ad andarsene senza Elena. Achille replicò che avrebbe fatto il possibile e Priamo si portò via il cadavere del figlio. Un frastuono tale accompagnò il funerale di Ettore. I troiani infatti piangevano con alti lamenti e i greci cercavano di sommergere la loro trenodia con ululati e altri versi animaleschi che gli uccelli caddero dal cielo, intontiti dal rumore. Per ordine di un oracolo le ossa di Ettore furono poi portate a Tebe, in Beozia, dove ancora si vede la tomba dell'eroe accanto alla fontana di Edipo. Secondo alcuni, le parole dell'oracolo suonavano così. «Udite, o uomini di Tebe, che vivete nella città di Cadmo. Se volete che la vostra terra sia prospera, ricca e onorata, portate a Tebe le ossa di Ettore, figlio di Priamo. Ora la terra d'Asia le ricopre, colà Zeus provvede ad onorarlo». Altri dicono che mentre una pestilenza infuriava in Grecia, Apollo ordinò che le ossa di Ettore trovassero nuova sepoltura in una famosa città greca che non aveva preso parte alla guerra di Troia. Secondo una versione del tutto diversa, Ettore era figlio di Apollo e fu ucciso da Pentesilea, regina delle Amazzoni. Secondo Proclo, Omerus significa cieco, anziché ostaggio, come comunemente lo si traduce. La professione dell'Aedo era la più ovvia per un cieco, dato che cecità e ispirazione si trovavano spesso unite. L'identità di Omero è stata discussa per circa 2500 anni. Secondo la tradizione più antica, egli era di stirpe ionica, nato a Chio, e la cosa pare plausibile. Un clan di Omeridi, ossia figli del cieco, che recitavano i tradizionali poemi omerici e in seguito divennero una corporazione, aveva sede a Delo, centro della Ionia, dove si diceva che Omero stesso avesse cantato i suoi versi. Talune parti dell'Iliade datano dal X secolo avanti Cristo, ma il soggetto trattato è più vecchio di tre secoli. Verso il VI secolo, versioni non autorizzate del poema cominciarono lentamente ad alterarne il testo originale. Pisistrato, tiranno di Atene, ordinò dunque una revisione ufficiale che affidò a quattro dotti. Pare che si adempissero con scrupolo al loro compito, ma poiché Omero era ormai considerato un'autorità incontestabile quando sorgevano dispute tra l'una e l'altra città, i nemici di Pisistrato lo accusarono di aver interpolato versi con scopi politici. I 24 canti dell'Iliade si svilupparono da un poema intitolato L'ira di Achille, che forse poteva essere declamato in una sola notte, e parlava del litigio scoppiato tra Agamennone e Achille a proposito di una principessa prigioniera. È improbabile che il testo degli avvenimenti più importanti abbia assunto la sua forma definitiva fin dalla prima Iliade, verso il 750 a.C. Tuttavia, i litigi descritti sono così poco edificanti, tutti i capi greci si comportano in modo così crudele, sleale e vergognoso, mentre i troiani, al contrario, si comportano così bene che non si possono avere dubbi circa le simpatie dell'autore. Come erede degli Aedi della corte minoica, egli si sentiva spiritualmente più vicino alle sepolte glorie di Cnosso e di Micene che ai fuochi degli accampamenti dei barbari invasori settentrionali. Omero descrive fedelmente la vita dei suoi nuovi signori, che avevano usurpato gli antichi titoli religiosi sposando le principesse ereditarie delle tribù e pur chiamandoli simili agli dei saggi e nobili, li copre di disprezzo. Essi infatti vivono di spada e muoiono di spada, ignorando l'amore, l'amicizia, la fede e le arti pacifiche. E si curano così poco dei nomi divini invocati nei loro giuramenti che il poeta osa in loro presenza burlarsi degli avidi, infidi, litigiosi, lascivi e codardi dei olimpi che hanno messo il mondo sottosopra. Lo si potrebbe giudicare codesto autore un empio bestemmiatore, se egli non si mostrasse invece segretamente devoto alla grande dea dell'Asia, che i greci avevano umiliata in quella guerra, e se la sua natura calda e umana non si rivelasse con improvvisi bagliori quando descrive la vita di famiglia nel palazzo di Priamo. Le crisi isteriche cui si abbandonò Achille dopo la morte di Patroclo devono aver scandalizzato Omero. Egli poi cercò di velare i barbari particolari del funerale dell'eroe, usando un linguaggio eroicomico, certo che i suoi signori non ne avrebbero afferrato l'arguzia. Si può dire che Omero, in un certo senso, abbia anticipato Goya, il quale dipinse in modo così stupendo i ritratti caricaturali della famiglia reale spagnola da farli accettare dalle sue vittime come veritieri e somiglianti. Il tono satirico dell'Iliade fu un po' smorzato dagli Omeridi, costretti a ingraziarsi i loro divini ospiti a Delo. Apollo e Artemide dovevano dunque dare il loro appoggio ai troiani in modo discreto e dignitoso, in contrasto con le malvagie divinità del campo greco. L'Iliade finì con l'essere stimata dalle autorità civiche della Grecia come il poema epico nazionale, e di conseguenza nessuno più considerò seriamente la religione olimpica, e la morale greca rimase sempre barbara, salvo nelle località dove sopravvissero i culti misterici cretesi, poiché i mistagoghi richiedevano agli iniziati un certificato di buona condotta. La grande dea, sebbene ormai ufficialmente subordinata a Zeus, continuò a esercitare una forte influenza spirituale a Eleusi, a Corinto e a Samotracia, finché i suoi misteri furono soppressi dai primi imperatori bizantini. Luciano, che ammirava Omero e gli succedette come poeta satirico delle divinità olimpiche, era anch'egli devoto alla dea a cui aveva sacrificato la prima ciocca recisa dei suoi capelli a Ierapoli. Si dice che le ossa di Ettore siano state portate a Tebe da Troia. Tuttavia Ettore era un appellativo del re sacro tebano prima che scoppiasse la guerra di Troia. Ed Ettore, giunto al termine del suo regno, ebbe la stessa sorte dei re sacri, fu cioè travolto e trascinato da un cocchio come Glauco, Ippolito, Enomao e Abdero. Poiché anche Achille era un appellativo più che un nome, la descrizione del duello tra i due eroi deve essere stata tratta dal perduto mito tebano del gregge di Edipo, nel quale i core combattevano per il trono.